Attenzione, signor Battisio! Oh, signor Battisio! Assente, assente! Assente! Cata, boh! Arriva fra 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, non so mai se c'è. Se qualcuno mi cerca, io sono assente. Ma così è! Andare! No. Non si esce da ultimo, signor Bacchi! Ma che mi deve mangiare il microfono? Andemmo, vai, andemmo. E devo pregare che so che c'è ancato, se no io rischio. Ma chi già finì la vita tu va? La fine dello storico. E tu pure la depensione. Andiamo bene, andiamo. E così, è così. Buccia di gioco, eh. Signor Marino, all'ascolto, eh. Ah, boh. Non lo so, no, signor Bacchi. Se può assicurare. Oh, signor Marino, ci sei o non ci sei? Su, ho detto c'è caldo, la stufa è accesa a tutto volume, andendi, oh. Può darsi pure di sì. E io ci ho acceso il frigorifero, questo è buono il frigorifero. Andiamo bene, andiamo. Sicuro sì, sì, è sicuro di sì. Attento, mormorino, dacci un bacio in cammino. No, oh, insegnate qua. Oh, io so. Quasi le 7:05. Sono le 7 adesso. Lui aprirà tra le 7:30. Marino, ci sei? Adesso quando entra l'autore non lo facciamo parlare, pur portante al nastro. Sicuramente sarà occupato. No, oggi è, per quello, no, martedì è oggi, o mercoledì, martedì è. L'ufficio collocamento forse è aperto, forse. Oggi è lunedì, signor Bacchi, lunedì. Ah, lunedì oggi, è poco sono ribambito, non mi ricordo più i giorni. E quando so che non dovrei essere in catapuglia, nulla da fare. Signor Bacchi, lunedì è oggi. Dopo, se andiamo e andiamo. Se andiamo e già torni. Sì. Purtroppo è così. Speriamo che domani mi metta in sesto, quello lì. Così facciamo l'operazione pari. Così facciamo? Vabbè, fermo così. Io sono qua. È toccato a me e io mi attengo. Ah, sì. Piano piano, sì. Oh, yeah. Tanto dovevano mangiare, poi di busciacca a 150 euro sia un signore. Ma cosa? Andà a pagare? Allora, a pagamento. Andando noi a demo. Purtroppo. Siamo fatti così, siamo fatti. Sono tutti impegnati sui veterinari di Sassari, non si c'è un veterinario qua. Tutti impegnati, liberi a gennaio, febbraio, e adesso... Ma il chivo a mezzo da osso per caso così di passare tutto. Come ne fa arrivare il chivo in oggi? Come ne fa arrivare? Stiamo andando male, una buccalia, se vuoi che intendi. Una buccalia. Se non prendono gente e la pagano, anche i bisogni di pigliati, non pagati e non fate nulla. Numero. Infatti è il numero, purtroppo. Diventerne una buccaria, diventerne queste cose della sanità. Se avremo metodo, dobbiamo cambiare metodo. È proprio così, bisogna cambiare metodo. Cosa è stato più bello? Prendere i soldi quando hai lavorato. Mi sono accertato, ho detto hai lavorato, senti dopo di me. Non l'ho voluta. Ma se delle cose al medico per chiedere a un ortopedico che devi fare cosa, non c'è posto. Chiedi l'appagamento e c'è il posto, io non so cosa. Allora se vai con l'Ina non ci sono posti, devi aspettare gennaio, febbraio per avere un posto. Se invece vai a pagamento, vai oggi, dice domani mattina alle 11:30 vengono a me. Hai capito. Hai compreso come ti è? Te lo fanno apposta, te lo fanno, che fanno capire che non c'è posto per poter guadagnare loro, hai compreso? Però deve finire questa cosa perché li devi denunciare, li devi. Però sai cos'è? Il posto già c'è. No, lo sono fatti così. Guadagnano di più, si mettono in tasca puliti e via dicendo. Hai sentito oggi per la sanità, per questo coso che c'è, che non si può essere contagiati così dentro in ospedale, eh? Stanno facendo indagini, stanno cominciando a fare le indagini, sono entrati i carabinieri, via tutte le cartelle tutto quanto. Mi soffendi. E poi adesso hanno preso in mano, la finanza ha preso in mano tutte le cose delle. Perché queste file, perché questo e per quest'altro. Vogliamo sapere il perché. Anche gli ospedali se fossi male. Anche lì è entrato adesso. Anche lì aveva la volta. E ancora niente, a fine dell'altro mese ci abbiamo. Più grosso l'hanno bloccato adesso per non bloccarlo per Natale, però mi sa che per Natale ha bloccato tutti. A Natale a mangiare in casa, anche non si prende di là, tutti in casa a mangiare, ma non più di 6 persone, anche se faccia fare un sacco di volte. Sì, la sai cosa voto io, me ne tolgo in casa. Me ne tolgo e mangio in casa, magno, non pare di una cosa, va a casa e buh, e non andarmi sul lupo. È uno è più sicuro, più tranquillo, è sano da mangiare tutto. Se no, se andi al ristorante, non è anche un po' di carraggio pure. Infatti, tanto se vai fuori, devi andare a vita e tutto canto. Vai, vai, tranquillo, devo canto. Però noi siamo vicini a noi, dobbiamo pensare anche agli altri, quelli che lavorano in quei giorni di festa, quelli che lavorano, sono pronti a niente, non incassano e non possono pagare le tasse, sono di sotto. E il coso, lo Stato è pensando a cosa, sarà tutto è pensando, ne ho sentito in molte regioni, vogliono anche del tutto. Infatti è così, bisogna trattenere in casa, chi se non guadagna, chi da se non guadagna, tanto che abbiamo buoni musei, siamo sempre noi. L'ultimo giorno per il caso siamo sempre noi, cambierà il tempo, cambierà tutto, non si preoccupi. Verrà un bel giorno, ci sentiamo in altari. Signor Bacchi, se portiamo tutto in tomba. Sì, non ti conosco, ma non so cosa hai conosciuto, Rosilio. Se andiamo tirati in campagna a mangiare Sirio. Infatti. Tu ne che insami. Ma che più sono è tutto. Rosilio è salvato. L'hai compreso che è Rosilio? È un'avventura. È un'avventura. Allora ti faccio vedere un conto, un paragone. La stessa famiglia della Ravanella. Era la stessa famiglia Ravanella, solo che io Ravanella non i poni, poni i fogli. E quando è tenaro, si vede i fogli e si mangia in salata. Appunto, un pochetto d'orzo, e Sharifa e io Gallemo. Mio padre l'ha conosciuta quella. Poi l'ha conosciuta mio padre, la pubblicità. E penso che ne ha già mangiato un bel. Tempi di flammio. E se no ancora non sono uscita. L'appara non è uscita ancora. No, chissà no. Chissà, mi pare che sia verso febbraio. Poi non l'ha già più visto, no? Da un momento non so come sia più. La zicoria esci. La zicoria era la cosa. Come si chiama? La ghidatra. La rughitta. No, è già pure. No, la mamma. Alleva sopra la scia, chi sa che qui lei la torta e stia passata nella cavata di un viole. Ma vai in contente torna nelle rame basse. Quando è bella grossa, un mazzo e via. Infatti bisogna andare in campagna e a Baidassi, Vinè e Fannira, a Chinoghi è tutta piscia da Reggani. Si vuole, si vuole. Allora io la figlia da io, sta tranquillo, il cane dove bacio. O la Sendia, la vicina Antonino a Costantino. C'è la camanna che fai questa casa vecchia. Ah, lì è. Lì ogni tanto voglio più bassare i piccoli. Ma quindi sono piccoli, no? È già 2 anni che sono piccoli. No? Ma fa figura anni l'anno. No, come si un padrone ha venduto a una ditta romana, a una cooperativa romana. E che la cooperativa romana ne voleva troppo dal fitto. Allora ha detto, stai in giro. La cooperativa romana deve essere pure a costruire in chivi. Si è abbandonato, va. La mamma che mi sta a fare la gioca, la sta a fare la zea. Qui è un pezzo, io vedo quando fa la campagna. Mi tira la Costantino. C'era un 600 metri quadri. Poi la zea che lo vede troppo e poi ho visto. Aspetta, questa deve essere buona, Chissà deve essere buona, chissà che è in treno a Fassira. Buona, io l'anno passato l'ho trovato a quintali. Anche per la chiesa me la domandava, diceva, Pietro non era, c'era il porto, che si bucava. Per la chiesa come stesso, ma lo sono io, per la gente andavo alla motoretta a tagliarli per vendita. E si popolasse che lo fanno da che fa. Andava io si faceva la zia, a motoretti si accavava, e a 50-60 centimetri. Certo, pensa un po' che le volare da devi darsi. Ma sai una cosa, i chibi vengono cercati sempre di piccoli, e il concime è vero, e quando nasce un po' doveva essere andente. Mi devo prima baitarsi la strada, a chi fa sentire così pari visia, però bisogna vedere se è già buona a cogliere. Io ho visto qua vicino al campo che ce n'è ed è già 50 centimetri alta. Ma chi sta attorno, manco passavo il vicino, che è malattia pieno polso. Oh, e ci passano i cani sopra, ci passano. Ma se buon cani mio. È una piazza, non credo io, è poca buona. Oh. Eppure non ho visto niente che mi ravvazzi. Un bel di niente si avvazzi. Eppure il loviale, se tu hai notato il loviale, se raccogli la zea, la traiettoria, la riva, e canti smog, non è più catrame che cosa. Certo, c'è gente senza gozio proprio, non ne ha putti nulla. Qui ci sono gente a scarico libero, non nulla. Non mi pensano che domani può peggiorare la roba, no? Là in campagna, si acciappa in campagna di Avoglia. Perché io c'era un tipo da portiere di Brutolino, fuori la campagna. Passava le macchine, faccia, piuvolo contro piuvolo, la coglia e si apportava. E io non c'ho mai accorto, la cosa è sempre la zanca, ivi. Trento, ma un po' che è lontano pure dalla strada. Infatti, bisogna raccogliere un po' lontano dalla strada, perché anche con la strada è un po' di polvere ci sale lì. Un bel niente. Ma se c'è niente, arrivo al laito, non lo fai, ma a bere e andare a Plazea. Non puoi pensare in te, sì, ma lontano un po'. No, sotto le piedi. Se ti vedi, senti, con la macchina, quasi dovunque la carrozzeria, ma con l'India l'ha bruciato. Dai, andiamo dove andiamo. Andiamo un po' per Mandronia, se va a teatro. Purtroppo sì. Certo, andiamo dove andiamo. Dai. È così. Domani c'è un po' di tempo che non c'è la cosa. No, non li posso volare, sono invalido. Appena che cominciamo qui, controleggio. Sì, signor Bacchi. Una gente che non interessa nulla, c'è piena di bisciu, c'è piena di gonzo, c'è piena di ghiddu. Oh. No, c'è niente, andare al burrito. Però, sai, sì. Chiamare è stata buona, a chiamare, ha fatto Eva, la madre, cosa, è bellissima. Ci venne, con un poco di zio da brecca, qualche pomazzaretta, una girata e guai. Infatti. Carità, meglio andare a danca in fondo e fatira sia la rughita che la zia. La zia sono mandroni, ma vedi la buti buti nel suo dei cose di casa che ha fatto no, per il momento non mi prendo più. Io non so qui gli vicini, io prima non so qui gli scendo zero con la campagna. C'è una strigina zia, le cani a sei ranca la pia, c'è dopo niente c'è zia. Infatti, purtroppo. Oh, c'è zia abbia di burare i beguri, Se ti porti vedini, io non lo so. È più buona che si è pisciata la vocale che l'acqua, magna di la bella. Sì, non ci vedo niente. No, faccio lì. No tu, fanno girare la zera, sta bisciata la rigane, vi bacia pure un cane meno in chivi. Ha fatto un contributo a chi l'hai coltivato tu pure, una percentuale l'hai scelta. Se no di viaggio di tu, cazzo se fanno la zera, no è per animare, ma fine maniera, che animare c'è dusci. Ma se tu andi, lavoro manzano. Allora non si riesce più presto. Alla zona. Perché dove si può fare la vendita? Non è dove ho fatto la mano. La riconosco sì. Mi sono quasi andato e mi sono passati per la via. Ne vuoi se a no pagare dai? A me piace. La camicia da vai piedi e ti prendesse la sole in mano. Ma io dici non fare, ti posso fare, che fare vai qua? Perché c'è la cascetta. Mi sei caduto una delle piedi di gioco con tui. Dammi 5 euro, ti sono come, vai, fate 5 paghetta. Che sei andato a farla? Mi sei che faccio l'usine, tre dosine, quattro dosine, chissà, puro. Tutta brutta, tutta boccalia. Vai, avviati. Certo, avviati a te. Ma non me la compare già la frutta e verdura. Certo. E più sana è cosa di manco. Infatti, più sana è cosa di manco. Certo, invece che in chili. I più sani cosa fa? Allora andare, ci fanno i quattro giochi. Quattro mattezea, uno di rughita, quattro bella granate, ne furano e ne imparano di nuovo. E così non se ne può più di vici. Certo, che andano in vicino andano a fascina, noi che andano in campagna lontano. No, andano in vicino. Come ti c'era un 15 fa, e adesso in campagna, e si erano i due giovani che presenti la strada, mentre con voi può farli passare, io viene di quattro corsi pieni, e si fa attraversare. Ho passato a Roma, ho passato a Roma, un euro, a noi ci siamo pagati in limoni e dobbiamo ricavare soldi, qui c'è il limone curato. Cazzo, un euro, due limoni, aveva fatto la pagoglia, me ne aveva fatto. Non precipizio, se lo vuoi, questo è la città. Però lo più bello è che quando è arrivato alla rotatoria, ha fatto la semicurva, no? Una borsa di limone si è data voce, tutto lo tranne a pieno. Certo, così mira. Certo, ma magari tu mi ha dato giù il burro. Aiuto a domandare, una mano ti ha detto, hai il cino di due in cima. Certo, facciamo l'attenzione. Una posta qui era Ianna, non ho visto spazio centrale, lo tranne. E fino a chi aveva poi appoggiato. Poi te lo tra, arrivata la curva, ti ha dovuto la prima volta, tutto in terra, accogli. Certo. Dai, io sono stato che sono andato e abbiamo accolto in fura. No, ci abbia, non so, la Ianna lo picca di quella bancarrera. Certo. Ma venne invece di strana. Dai, ti ho visto però. Uno ha tutto quanto colorato, verdeggiato, e l'altro era verdeggiato in capo, aveva un disegno in capo. Oh Giulia, ogni tanto andano in occhi vicino a rangoggia di la... come si chiama, di la cura, delle... a fura sia arancio che limoni. Ah, nella fauna di campagna, ex campagna di Messina. Già sono lì la parte, non ho capito, ma poi si è guardata un cammino, si è guardata tutto, si è guardata la linea della lampada, i giorni, i giorni della lampada, più limoni, tutti, mera, pera, io non so perché in questa casa ho già abitato un anno, e dunque so cosa avevo, se non vuoi, e conosco pure il padrone. Allora io lo faccio dire, tu sei un dente, le gambe due, il lascio il cancello, entra dai capaci. Certo, è compreso. E ne rifate la frutta, ne rifate. Ma sei prima Giuseppe, sta tranquillo per questi bucci. Che ci va la doppietta, va? No, ma non pesanti, È puro, che cappiotto pesci? No, guarda cosa. Mi pare il figatinghia va male, è belli grossi mi. E te ne pare. E chi si lascia un segno di tassa? No, chi c'è niente, in Italia la grossa, non le mani in Italia. Ma non l'ho mai avuto però, sempre fatto. Poi veniva un altro, chi c'era un piano, mi sono mica di pizza. Forse avrebbe riuscito via vicino alla cosa, la presenza la cantina. E se il manzo l'ho visto, quando io qua alla campagna travagliare, e la parente, una borsa, e quello va via, però facevo via un chilo, due chili di limone e se ne stava. Andava alla coppa e si rinvia. E domani la moto si corta, e non fa pipa via. Certo. E va, non ne voglio più, la faccia un badro la cosa e non rientrano più così. Se noi andiamo a curare il corso, l'aranzo, il mandarino, a calamascio. Anche vera prima, Ah, ma non v'è più? Perché sì, non c'è più. Non ce per il marino, a prendere il cielo del pante, sì sì. Guarda, no. Guarda, non c'è più, non c'è Maria, sentite. Si entra da inizio, no, non entrava. Ah, hai capito. No, beh, non te ne lo vedo. La telenovela è proprio. Anthony, che è così da pura la propagazione. Ho catturato da tutto. È girato un po' garito. Oh sì, arriva la sia pure oggi che si faccia i voti. Cioè, bello prepotente. Vediamo un po' se ci ascolta il signor Marino. Marino, Marino. Attenzione, signor Marino, se ci sei batti un colpo. Eppure domani io non posso camminare, sennò è passato la mia con un paio di cappiotti e ti accontenta lo male. Sì, a meno che non ha già travagliato, che non fa già niente in casa. Sì, infatti la gente. Poi domani sono andato pure, ma capi poi è andato. Sono chiusi. Sì, sono chiusi. Solo al bar puoi entrare. A distanza è andati. No, manca entrare a Wallo. Allora ti dico, quello vicino a casa, tutta la famiglia, virus. Sarrato di lo tutto, uomo. Via, virus, virus. Ah, il bar Sanna. Dove? Il bar Sanna. Gianni, Gianni, il bar. Tutto che ho avuto un virus, oi. Ma importa se andi tu, sei infetto, senza mascherina, hai arruinato mezzo mondo. No. Così non andava, no. Si è pigliato pure un torto, pure un gambarelli. E infatti, pure un gambarelli in quarantena era. No. E dopo lo sto portando. Poi è un saputo, no? 40 lì. Infatti è così, signor Bacchi, è così. Allora sono in quarantena. Speriamo che non ha già ricoperato con qualche uno. Sono in quarantena. Io sento una voce nel sottofondo femminile. Poi lo sento odore di ritorno. Avanti che da fuori era tu, roba è veramente da fuori. Infatti, roba che sta venendo da fuori. Oh, il marmolino se mantenne che male su. Mi sa che sia così, che sia lontano in macchina. Prendi, freddo, prendi, poi ti viene la romatia. Tanto non mangiare non dici. Se ci vanno a travagliare i tre. Montavo il freddo. Mangiavo sotto i tappi, non ti capivo, ma... Quando si comprava da giosso c'era appena di freschetto. Oggi, io non sono uscito. Non so se ha fatto bella giornata a volte. Andavo a cuore per la vetta, però... Non si sa se è al greco, se è al gatto, così. Allora, se domani esce il sole, mi preparo un paio di busti e me ne pongo in buccia, me ne pongo in soffitta. Arriva a dire a me, certo. No, stamattina dalle 9:30 ha cominciato a sentirsi il calore. E beh, mangiare la prima, l'umidità c'è tanto per asciugare, poi entra il calore. E beh, anzi, siamo fortunati, siamo già nelle porte di dicembre. E ancora metà lì. Avevamo tutta questa ghetta ancora per averla. Tutta questa ghetta che rimane così. Buono. E così a cane fa, ma non li piantemmo. C'è il Bacchi. Ci sei in condizioni. E pare che tardi. Allora, questa priacca di... un movimento che non funziona, se no le cambiate travagliate per ragazzi. Per niente la pianta della cava pure. Infatti è così. Allora se ne scendere il baburo. No, è già cresciuta, vediamo un bel da mille di fa, che ci ho popolato. Poi si vanno in campo. Quindi devi baciare con un drattore, devi baciare. Fai tutto, devi poi devi pulire. In che si rubi, devi fare in che si rubi. Adesso gli adori li vedi via. Certo, andiamo che andiamo. L'erba, se non è pulito, continua a crescere. L'erba cresce anche deve crescere, da pure devi vivere. Vai a avere un contadino che devi tagliare. E dunque, è successo questo. Si fila la riva da così, vedo di fare l'interno, cercando sia la sua, non fai nulla. Infatti è così, quando sei da solo non riesci a far nulla proprio. Purtroppo. Raccogli questo, vedi pianta questo, vedi da fai l'altro, vedi da fai da, se puoi mangiare i cucciucci, se puoi mangiare i cucciucci. Io ho un calendario ogni lì. È una cosa brutta, eh. È una cosa brutta. Ma com'è che ho riuscito a pigliarla, quindi, se no era stato un peggio. Sei. Prima facevi un pettinocchio, un pettinità, un colpo alla uno, un colpo all'altro, e si a posto, sempre tranquillato. Quando si sacca una lì, non riesci più a seguirla. E anche quello, eh. E anche quello così. Ma chi è? Ma signor Bacchi? Sì, ha baciato uno, E vuol dire che una ravagogna entra? Tu sparato, è entrato. E vuol dire non è piace la voce nutra. Buonasera. Mia signor Marino, mi. Buonasera signor Marino, già è un'ora che te la mangettelli. Buonasera, appena tu non è arrivata la macchina è già fatta. Penso che gli fa una bella visita ginecologica, oculistica e anche così ortopedica. Sì, signor Marino, tante cose calde e calde. Noi speravamo che il marino non entrava, il marino ormai ha perso il treno. Se ci parla dietro, chi se ne frega? Vuol dire che abbiamo caffè del scorreggio. È così. Io mi sono cominciato a granchiare un po' blanca, ma trovo la posata di la rivolta. Io viene domani alle 11:15, ma te ne conosco, cioè alle 11:15 vengo da lì, va bene però, se non ti casino è caduto ancora meglio. Ma chi è a casa? Chi è a casa viene, adesso io non posso muovermi, non riesco a camminare, è caduto un po' così, vengo io a trovare, non si preoccupi. Per forza, quando vedi, mi vuole un biglietto grande o un biglietto piccolo. Come si chiama questo? Non ho capito mai. Come si chiama? Il nome non lo so, dico senta verità, sono il numero di telefono. Sai dove? Te lo dico chiaro e tondo, al semaforo, dove abitava Graziella, al primo piano. Abitava a Betaverde, palazzo di Betaverde. Infatti, l'importante è che riesca a nominarti cosa c'hai e che cura ti deve dare. Non sono i muscoli addormentati, no? Sembrano che siano dei coltelli che stanno tagliando, proprio, cioè, dopo sotto la macchina, da morire. No, mi hanno detto che sei molto bravo questo qui, è molto perfetto. Infatti mi ha chiesto che sintomi ha, detto così, lo so. Dice che fa male la coscia, ma detto io, proprio nella coscia, e va bene, ho capito. Avanti, che ritorniamo indietro. Andemmo. Signor Bacchi, bisogna fare così, bisogna fare, se no non usciamo più. Ma no, capito, Marino, sai, vedi tutto quello che ti fa male. E devo dire pure che mi fa male l'altra gamba. No, se viene l'infermiera perché mi deve aiutare. Almeno dicevo che passa il dolore, io mi auguro passa subito il dolore. E se no, a Calamascio dopo. No, non si pensare che c'è stato passare. Ma è anche io che vuole conforto le punture, la cottura, le massaggi magari, anche per le lui, dai. Non si mette nei problemi, dai, domani lo sai, comunque tanto già un po' di testa che avevo saluta. Domani anch'io lo passare, non ci so. Infatti, non ci pensare neanche di andare lì. Certo, che è ancora il tizio. Piano piano si prendente. Vediamo domani cosa dice. Cosa mi dice questo qui. Se no vuoi a lui. Perché avevo detto, gente, se lo conosce, si è curato, ma è così pignolo che non ho un'idea. Si può pagare, e dice per una cosa maestra, si può pagare, però il lavoro è finito. Meglio che sappia quello che deve fare, ecco cosa è. Poi i baridina ce l'abbiamo anche due paesi. E quale stai usando? Il coso? Quello 23 canali? Adesso è a 4, si vedeva poco fa, lascialo come era prima, che si capisce più bene. Sì, è a 4, è a 4. quando ha messo al massimo una bomba, era una bomba, era anche chiara la modulazione, era molto chiara. Beh, infatti, meglio lasciarlo com'è e tutto quanto, non manco così si vede, si capisce anche. Ehi, tanto per chi dice che sono rugoso, non si comprende nulla, sono forti, non vedevo se non si comprende nulla. Ciao Marino, buonanotte, ciao in casa, a domani se tu concilia ce la chiacchieriamo, ce la vediamo, va bene, avanti tu. Ciao Mari, stammi bene, sai tenere il caldo, ce la sentiamo domani se tutto va bene. E così esce a tu, così è, ti potremmo trovare a in vero. Ciao che cracco è capusato. Non so cosa vuol dire. Già lo so, sì, io sono più fusato che in piedi, figurando un po' così ne intendo. E bisogna che cammini a Bareccio io. No, ma io non, in piedi non mi posso stare. A chi comincia di fare in piedi bisogna fare sopra e sopra niente. A tutti i pari. Vedete, mi diventa un macco. Vabbè, fermo così, fermo. Andiamo, la vecchiaia è carogna dopo. Infatti così, la vecchiaia è carogna. E cosa gli vuoi fare? Piano perché c'è il limite, ma io piano perché c'è il vabbè. Sarà così, sarà piano piano, dai, domani che ando bene, te la tira ancora e la ti bassa da bui. Ma lì c'è tutto qui, sono il veterinario mio. Qui sono il veterinario mio, sono commessi, fatigli, punture, sciroppi, balle balle. Mandami a un altro figlio, non c'è la giusta, mi dice, vai, dici che mandi un altro figlio. E non è nulla, a pagamento, vai, esce due volte a pagamento e non so come prendere per sciacquare con te. Infatti, forse se avevi sentito l'ortopedico era stato meglio da prima. Ah beh, capiai in filo di guerra. Armatevi e partite. A che? E la verità a lei, ma il posto dai io so come senti io. Avevi fatto con un drattorio o con un gozio, con la motozappa. Ma io devo arrivare con un drattorio, 50 euro, non se ne parla più. E non posso essere una vita. Quanto va, la riva è tutta canta in terra, così. La riva ormai è parata, non vede più. La riva non vede più. Sì, è rimasta tutta in terra, è rimasta. Un po' quello che ha costo prima di andare a mare. E vabbè, fai passare il trattore a manco te lo dai pulito in chili, poi dall'altra parte se ci riesci lo fai, se no pazienza. Piano piano, l'ultimo palo in salata l'ho fatto, dopo poi che non se ne sappia. Fatto bene, se ma chi? Ah, ma come si sapeva da assaggiarla? Un pochettino per l'insalata ci vuole e se no è guaio. Poco l'ho fatto, poco. Questa che ci chiamiamo di canno, ma non penso. Tocca fare così, tocca fare. Vabbè. Devo dire che pazienza. Piacenza. Mi pare che andiamo a Piacenza e si fermo un po'. No, è cosa. Lo chiedo un po' al mio vicino se li vende il mio video. Lui ce l'avrà fatta, così è. Se l'ha fatta, io no. Non penso che sia fatto assai, ma tanto non li tratta. Oh! Nota, se provi il WC, cose non è tratta. Se lo vendi allora? Allora, lo metti in portafoglio. Il lodo è grande così, già è buono. Chiaro, quello è buono. Non come ti dico il compagno, si sa che è buono, porcherie ce ne mettono, E noi ce ne mangiamo. Infatti è così, e noi te lo mangiamo. Al prossimo anno adesso avere le olive, prossimo giro, prossima corsa, e ne avremo di meno. Accanno l'ulta, ma manca arriva di duffettavo, l'ha già avuto, l'ulta, accanno, è andato a zero, appena lo viola a macchini, ha raccolto l'ho venuta, però di nulla no, una decina da lì mi sono andato all'altro. Pensa un poco. Da Baida, che ti barchini sono arrivati a Baida, ma entra da poco di che sei gente tunisina e algerini. Voglio un canna a cotte con i robusti. Che sono di zende, di vegliare, fagliere un biglietto di via e tornarsi al loro paese, che non fine è guerra. Non è che si è abbussati, no. Aveva dato un marchino, io a vedere. Infatti. Abbiamo fatto un biglietto da Dorrascini da un paese di chiatta che ne deve venire ai nocchi a rompere balle. Sì, ma lo sai, la Sardegna e l'Italia sono abbastanza abbiati, tutti le buoni, andare in corsi che te le mandano, andare a coso, all'isola di Malta e te le mandano, noi invece poveri, tutta la montagna in Italia. Ah, che sono, vabbè, gente che non si fa nulla, non si vi. Ho imbigliato e portato a casa a reddi, voi. Voglio vedere se c'è il denini. Certo, invece di venire ai nobili. Magari che ci sono arrivati, sono pure infettati, non si sa. Allora, dalle controleggere. Infatti così, È così che si offende. Ma il signor Bacchi, io è giunta l'ora del merendero e dei bastigli buro. Ci risentiamo domani se tutto andrà bene. Ok, signor Bacchi, ci sentiamo. Buona cena a tutto quanto e anche agli ascoltoni. Ciao Tore, buona serata, grazie alla compagnia. Buona cena, buon tutto, saluto la signora, domani se non ci vede ce la chiacchieriamo ancora. E questo andò bene, se no la vuoi mandare per un benissimo, soltiamo anche quelli di essere l'orecchio dell'elefante e partite per il ok, siamo partiti, ci sentiamo.